Ma che cosa mi cambia se oggi crolla la banca? Se la benza sale a picco e la mia gente arranca. Ma qua niente cambia, la mia gente è stanca. Se comanda il più ricco l'inghippo per noi ne manca. Ma che cosa mi cambia? Se papà va in Uganda, se il cugino del vicino ha vinto a Sarabanda. Ma qua niente cambia, la mia gente sbanda. Cinica le notizie che questo stato ci manda. Oggi come ieri, troppi pensieri. E se guardo il telegiornale, sempre più neri e deleteri. Qua la gente s'ammazza, fuori stanno male. Sembra tutto normale fino a quando la rabbia sale per niente, in un niente scatta qualcosa. Ad ogni azione sbagliata la percentuale riscossa. Storie da Michael Myers quando si spezza una vita acerba. Famiglie distrutte, hanno nuovi liguri ad erba. È una guerra aperta, non serve stare allerta. E la gente esperta su questo pensa a farsi la cresta. Non basta, alimentiamo sempre la stessa tasca. Qua la gente sbrocca prima o poi qualche testa casca. Noi che cerchiamo una rivalsa, noi abituati ogni giorno alla stessa salsa. Convinti anche quando non ne valsa la pena, sperando che sto cielo un giorno si rasserena. Ma che cosa mi cambia se oggi crolla la banca? Se la benza sale a picco e la mia gente arranca. Ma qua niente cambia, la mia gente è stanca. Se comanda il più ricco l'inghippo per noi non manca. Ma che cosa mi cambia se papà va in Uganda, se il cugino del vicino ha vinto a Sarabanda. Ma qua niente cambia, la mia gente sbanda. Cinica le notizie che questo stato ci manda. Che ci posso fare se sono un tipo sensibile? Vedo troppo marcia intorno per me insostenibile. Sono irascibile quando sento notizie di famiglie e di servizi. L'ingenuità dei bimbi nasconde malizia e il dazio. Da pagare non è una sanzione. L'infanzia rovinata da un'azione reazione che crea disturbi in un domani di certe persone. Forse schiavi di un padrone, forse schiavi di una religione, forse ignavi nella loro posizione. In questa assurda nazione dove ancora c'è chi fa il capo nel rione, dove non c'è niente specie per noi giovani giù al meridione. Ma come sbarco il lunario, ma come faccio la grana? Non sono un figlio di puttana come Tony Montana. Questa è la beffa, aspettando il sole come anneffa. Me la faccio grossa prima dell'ultima mossa. Ma che cosa mi cambia se oggi crolla la banca? Se la benza sale a picco e la mia gente arranca. Ma qua niente cambia, la mia gente è stanca. Se comanda il più ricco l'inghippo per noi non manca. Ma che cosa mi cambia se papà va in Uganda, se il cugino del vicino ha vinto a Sarabanda. Ma qua niente cambia, la mia gente sbanda. Cinica le notizie che questo stato ci manda. Troppi pensieri, sempre più neri e deleteri. AND Manzish, Made in Italy mixtape.